che già era un cristiano, che andava bene, soldi a volontà, auti, camionette, gioie, era una meraviglia, ben vestito, donne poi anche se che parla. E un giorno i gerivai in due tre laghi ha detto: ascolta qua, dende che viene fuori tutti quei soldi lì? Beh, che lì è un problema mio. E ha passato così, passa un paio di giorni, tutti quanti con l'occhio addosso, ma guadagni lo soldi in due quella, guadagni lo soldi in due quella, e vai. Che hai fatto che? E andai là, e aveva una bodeghetta misera, cacciassa e tal, ma a parte il drio di tutto questo, soldi e soldi. Allora andai là un paio di amici, che ha detto: ascolta qua, o te mi conti come funziona questa storia lì, perché se no te femo veni i fiscai qua. Ha detto così, ste mia far venire qua i fiscai, perché mica impareccio una al fiscale che mai più il torna in drio. E che passa un paio di giorni, la tua bodega che l'impea, che l'nettea su per di qua e per di là, capito rento uno ciò, in gravata su, ben postato, una malletta. Che ha detto: no, siamo fiscai. E allora lui ha detto: vuto che? Volemo sapere tutto che il patrimonio che te è, non è che vieni i soldi. Lui ha detto, levanta sui bracci, apposte, mi dughi, fa dughi, mi dughi con un guadagno, dughi con un altro guadagno, mi fa qualche dughi, mi guadagno. Ah, ma non può essere vera. Sì, sono io dirte, mi guadagno facile. Per esempio, ho voluto fare un dugo con me, femo che? Che ha detto, giochiamo che mi morsego l'occhio dritto. Oh, no. Giochiamo 500 conti, fate 500 conti, tratti là, ciappa l'occhio del cristallo, tiri fuori, morseglo. Pianta di volta l'occhio, e gli ha detto, va bene, te mi chiedo da. Femo un altro. Poi gli ha detto, giochiamo adesso 1000 conti, che mi morsego anche quel sanco. Ah, gli ha detto, amico, visto che ti sei mia orbo, giochiamo i 1000 conti. Giochiamo 1000 conti, tira fuori due sciappi, uno scimmio sotto, morsega l'occhio. Guadagna un altro 1000 conti. E il fiscale era matto per capare il gatto, torse a casa. Matte quella, firmela. E gli ha detto, ma pol mia, se è vera. E gli ha detto, fermo un altro dugo. Lo guardà. E gli ha detto, adesso che guardo che il corpetto che te è lì, ti te che faccia di vermoroide. C'ho il fiscale, gli ha detto, ti sei neanche amato? Sì, ti te che è moroide. No, che non vuoi morire, sì che ti chiamano, no, sì, no, giochiamo 3000 conti, feito, perso 1500 un altro 3000 conti, una buccia di soldi, famore di Dio, giochi 3000 conti, dammi quei soldi, no signor, piatta lì, come così ti portavi i soldi, amico mio emoroide, ma bisogna che dare una occiadina, ciò che ha guardato in volta il fiscale che ha detto, piuttosto di perdere 1500 dopo un altro 3, mica io mostro, ti andate un cantonetto là, ciò, bodeghetta, Savino, andate un cantonetto là, sbasso le braghe e mostra che lo gada una spiata così, ma sono mia contento, come così? Dietro, no, sbasso le braghe, mi vuoi dare una palpatina? No, che dite, aspetta lì, adesso no, guarda qua, fammi sapere se te che è emoroide, se come i dottori, una palpatina. E il fiscale per non perdere tutto, sue braghe un'altra volta e lui da là, una palpatina. Dire, su, puoi tirare sue braghe e puoi andare via, te che hai guadagnato anche apposta. E allora, com'è che te mi spieghi una cosa che là? Guardami qua, vedo che i quattro di giocare carte la via, vuoi giocare 5000 conti cada uno, che se venia qua il fiscale che impianteo dentro il culo.